scusa, perché siamo il cristiano. C'è qualcuno sul 10? Chi è? Sono me. Natalino? Che si vede? No, non stavo guardando, no, stavo notando già. Sono carine queste web SDR online, cioè senza comprare nemmeno il ricevitore SDR, c'è delle stazioni già amatoriali, quindi con antenne buone, vai al sito apposito, in questo caso è a Roma, ti puoi ascoltare qua se o come avere un ricevitore a casa. Anche perché se ti metti l'SDR comunque a casa, attaccato al computer, hai bisogno di un'antenna più o meno buona per ricevere, capito? In condominio rumoroso, invece qua la qualità è ottima. È carino, un'alternativa carina, dai. Gira gira, non mi compare giù nemmanco di Texun, quel ricevitorino HF amatoriale che volevo prendere. E vivo l'antenna, vivo però, se non hai antenna. Io di quella ce l'ho veicolare l'antenna, però mi tocca uscire in macchina. Mentre qui, essendo posizione Roma, è abbastanza centrale come posizione, no? E ti appare il waterfall, no? Già lo sai, no? Come segnali. Vediamo un po' cosa sente. Vediamo un po'. Vabbè, dai, per passare il tempo, buono a sapersi comunque, dai. K. Allora, pronti siamo, che sto venendo. Te l'ho incarto? Che mi pare di sì, Buona, sali. Già si risolve, dai, io adesso... Poi comunque ci sto pensando anche 10 volte prima di fare spese, anche io questo Rosmetro, cioè... fine, come dire, cioè c'è loro su mettere in cacca, cioè una volta che ho, che ne so, 1,5 sull'80 o sul 90 e 1,5 sul 128, finite le misurazioni, non si tocca più, capito? Vabbè, vediamo, prendiamo tempo, meglio riflettere bene. Riflettiamo. Adesso di MB più 4 ne ho due, cazzo. Tu, ieri notte abbiamo fatto le 2:10 di notte. A che ora? Le 2:10 di notte abbiamo chiuso. Ma amoreggiare, andatevene negli altri canali, invece c'è il canale 10, capito? Vabbè, no? Mimì e Cogò e cagami la biglia. No, ieri notte eravamo sull'11, ci siamo spostati che c'era quel REM qua. Ma tu stavi ascoltando Claudio fino a quell'ora? Io ascolto tutto, non mi scappa niente a me, anche quando sono a letto io ascolto. E tu presi i tre della Ave Maria, Mimì, Cogò e Girabracchina, eh? Andate con il tre della notte, invece stai amoreggiando. Stavano qua. Claudio, stavo notando queste web SDR, no, senza comprare nulla né ricevitore né SDR, ti colleghi al sito, è un bijou, appoggia. Dieci giorni, ma io me li farei voi. Chiaro, bello, senza pure antenne HF, è un bijou, questo è a Roma, è una stazione di Roma, cioè il ricevitore è a Roma e quindi qua arriva a sparare, cioè riceve quello che c'è in Italia, dai. Io non ho bisogno di un SDR, ce lo sia in buca io. HF non ne ho, non mi interessa, non mi spendo soldi per SDR in HF, in cui russi. E Natalì, c'era lui, cosa mi diciamo, Fabio, o Danilo, che è, non mi ricordo, e Giovanna, tutti i notti so a ciu. Ehi, l'ho sentito. Sì, modula con noi, poi loro chiudono perché per loro l'ora è tardo. Sento un break, avanti. Avanti? No? Ehi, comunque Fabio ha l'eco troppo forte, perché di notte è deleterio, una cosa del genere, perché io tengo il volume al minimo a quelle ore piccole, per non disturbare mamma. Ma una radio forte è deleteria con quell'eco. senza eco cambia tutto già. Sì, ma per te ne si può avvicinare tardi, vabbè, non me, poco mi interessa. No, io ho sentito, sono entrato a spegnere la radio, glielo lascio accendersi da tardi. Forse non è mezzo. Ho visto che eravate in radio tutte e tre, quindi, vabbè, se avete voglia di chiacchierare quell'ora, ben venga. Ebbene, ti ha ritirato dal microfono. Che l'ha portato lui stamattina? Dai. Ah, va, io mi raggio comparato. Chi sei il nuovo? E raggio un altro, la vanno giù lui. Perché c'aveva un transistor che c'era un collegamento rotto, deve essere. Adesso quale stai usando? Quello che hai preso da Antonello o quello che ti ha riparato? Oh, quello che mi ha riparato Fabrizio c'ha l'attacco a 4. So, quello che mi ha venduto Antonello sto usando. Va bene, al massimo ce l'hai. Allora, importante, no? Anche se non ci riesco a portare. Sì, al massimo. E non amplifica molto questa... come si chiama? Questo apparecchio qua. Sto cercando, ma qualcuno che lo vende, è un apparecchio serio, non c'è cazzo. Con l'attacco a 4. Chi attacco l'altro, un cazzo? Una 48 ti devi trovare, Natali, non devi avere niente di più tu. Capito? Alla 48, e l'altro sempre pronto. Capito? Una 48 è più che sufficiente per te. Con l'attacco a 4. E vai più che bene, intanto. Cosa pensi che rimanga la gente che ci esita, va dopo la prossima settimana si rientra, riapre tutto e si torna quasi alla normalità. Già oggi è tutto quasi aperto. Io mi sono entrato adesso, ero al Guerrelle anche stamattina. E niente, alle 4:15, 4:10, vanno via, quindi me ne rientro. Però ti ripeto, vabbè, ci rimanga tutta questa gente a fa brutto e basta. Rimarremo sempre quelle poche persone. Quindi non conviene spendere soldi per comprare radio più sofisticate. No, infatti. Comunque, avete visto il caldo boia di oggi? Allora, nel pomeriggio mi sono andato all'ombra, 23 gradi o 24, all'ombra, no, proprio all'ombra della strada. Io sono uscito in camicia estiva, sono tornato in un bagno di sudore, sono sceso al centro, ho ritirato la pensione di mamma, sono andato al tabacchino a pagare le bollette, quei farabutti della banca della carta mia erano chiuse, proprio chiuse, non solo non rispondevano al telefono ma erano chiuse perché ho bussato. Poi sono salito, giornali, medicine, che poi a melatonina, fatta la spesa, sono tornato con il peso in salita, a giornale mi viene un infarto. Vai Natalia. Sì, positivo, è fatto un rialt ancora al furgone. Riprendi Natalia. Via. Stavo dicendo, un apparecchio di quelli che vanno in SSB mi volevo prendere, sono più selettivi, più tutto, escono meglio. Io ti ho capito Antoni, però io non ne ho, sono travelato, non ne ho, io quelle che ho me li tengo, perché mi servono, capito? Non so chi ne ha, non so, sentiamo se vediamo se c'è qualcosa, non so, io ce l'ho dalla 48, me lo tengo, poi c'è l'Elba, che c'è il DAC e il Zodiac. Va bene, sì, Marco, ho fatto una bella giornata, no? Non ci sono dubbi, andare. Va bene, stamattina fuori Sassari c'era un bel sole, tranquillo, vabbè, adesso inizia il tempo bello, dai. Ancora abbiamo qualche perturbazione di passaggio, però qui già va bene. Sempre pinnelle di nasci, Marco, ma cosa vi comparare, CDR, ma cosa di Nafu, ma ti pare devi spendere soldi, non hai patente, non hai niente, per ascoltare a chi? Agli altri? No, assolutamente. No, infatti, Claudio, infatti, è essendoci queste SDR online, tu ti colleghi al sito, c'hai tutto il waterfall, selezioni la frequenza e ricevi. Sì, infatti non conviene comprare Netex One, che poi lì dovrei andare in macchina con la veicolare per ricevere. Insomma, è comodo, poi però è instabile, ti spiego, mi compare la scritta, il tuo browser non è compatibile, infatti ogni tanto va in crash, per il sito italiano, invece per il sito olandese, c'è il vecchio, il primo web SDR che c'era, è sempre andato bene, però riceve dall'Olanda, capito? A me interessava uno che riceva dall'Italia, e quindi dovrò mettere, caricare un altro browser sul tipo Firefox sul cellulare. Ok, vai Natalia. Ma che browser hai tu? Il più spione di tutti, il più invasivo, Chrome, Google Chrome. Non è compatibile. Eia, però gli altri sì, gli altri siti sì, pochi guardati, Ce n'è un po' dappertutto in questi web SDR. E siccome l'audio del cellulare è tutto CCC, l'ho collegato a un altoparlante Bluetooth della JBL che ha dei bei bassi e sembra di avere quei ricevitori a valvole mie. Cioè, perché non sentivo in questo apparecchio. Ma in questo... ma perché? Che c'avevo il tono basso. Stamattina è entrato Riccardino e lo ascoltavo benissimo. Forse mi abbassa anche il segnale. Il tono basso. Ah, il tono è low. No, quello abbassa il tono di ricezione, non le refegin. Vabbè, adesso ascolto bene. No, ma sai cos'è Natale? Riccardino, io lo sento, certe volte arriva quasi 9, certe volte Santiago 1 o Santiago 5, sta sempre toccando, va col segnale su giù, su giù, su giù, alla fine, e poi dice, si meraviglia che non gli rispondono. Sei il balle che... Ma la tua di balle, balle. Non metto lingua. Sì, può darsi pure che qualcosa del tono funzioni anche da refegh, ma non è detto. No, ce l'ho quel baracchino, Claudio. Quello TL, tone low vuol dire, tone low. Quando c'è una stazione troppo acuta puoi abbassare il tono. Poi quel Polmar, vabbè, serve giusto come omologato da presentare in caso di controlli. Per il resto non ne uso, dai. Anche quell'altro che hai visto ieri, no, quello lì più che regalare non lo puoi regalare, non puoi fare altro. Mi vergogno a chiedere 20 euro per quello. Vabbè, se qualcuno non ne ha, glielo dai. Così ordina frutti. Ma no. No, vabbè. E Natali, guarda, entra su internet, cazzo, sei sempre su internet. Vivi con internet e tu entra, guarda se c'è qualche baracchino, se c'è qualche cosa che ti interessa e te lo prendi. Cosa porta lì a Cicischia? Nuovo non te ne prende, guarda se lo trovi usato. Guarda se lo trovi usato. Ma poi scusa un attimo, ma cazzo, ma non stai vendendo due baracchini tu? Ma hai detto che c'hai il presidente Lincoln e quell'altro? Perché non attacchi uno di quelli? Perché uno è senza microfono e senza alimentatore e l'altro funziona male. Infatti li vuole un amico che ha detto che li vuole controllare lui. Ecco perché non li attacco. Se trovavo qualcuno e me lo vendeva un apparecchio di quelli a seconda mano, che me lo prendevo, cazzo. Io ho capito, cazzo, ma a me mi hai dato il prezzo di quelli dei due baracchini. Se sono non funzionanti o che funzionano male, non li puoi prendere a quella cifra, no, cazzo? Ma non li sto vendendo, non me ne sbatte nulla. Se non riesci a punire la puzza di rilampo, cosa mi innaffuti? Ne voglio uno nuovo che funzioni bene, che non devo toccare nulla. Il microfono ce l'ho lì, l'attacco e siamo a posto. Basta, non devo toccare nulla. Guarda, Sandro Tigre mi sembra che stava prendendo qualcosa. Sandro Tigre, non so se ce l'hai tu il numero, lo chiami. E dice lei cosa sta vendendo e quanto è a volo. So che sta vendendo due bei baracchini, Sandro, di cui uno anche modificato. No, non ne voglio modificati, voglio un apparecchio normale, che vada nei 6.000 che c'abbia i canali. Basta, non voglio altro. Che sia piccolo da poter... capiti, ci siamo, Ocla. Hai capito più. E allora devi sentire Roberto, a vedere se ha parlato con Tonino, se ce l'ha ancora con l'8001, ti compri l'8001 nuovo, se ti fa il prezzo buono. Sì, infatti. Dice che si avvicinava, non si sa se è aperto questo qui, della GBC, al telefono non risponde. Roberto non si è fatto sentire, evidentemente non ha avuto tempo di andarci. Matta lì, tu devi pigliare la macchina, ti ho detto che puoi uscire, non c'è nessuna restrizione, oggi a Sassari, a Fucchettini, te lo sto dicendo io. Prendi la macchina, vai da Roberto, lo pigli e andate assieme alla GBC, ci vuole poco a fare queste cose, Matta lì, se tu aspetti agli altri, non ti guardi mai nulla, fai tu. Prendi la macchina, ti avvicini a Roberto in officina, aiuto, andiamo alla GBC a vedere se c'è questo baracchino. È 5 minuti dall'officina sua, fai il giro del palazzo e batte, se no andate a piedi e vedi un po' se c'è, se non c'è, se la piglia luce. E infatti l'idea era quella di andare di andare lì alla GBC. Lui doveva andare a informarsi a vedere se ce l'aveva ancora e che prezzo gli faceva lui. Oggi no, che su è una farmacia. Comunque, Natali, c'hai anche la scusante. C'è Lidl dietro GBC. Nel caso di controlli lungo tragitto, sono andato a Lidl, compri due cosette al limite prima di tornare, è risolto. E c'è la giustificazione pure. Infatti. Però prima lo voglio telefonare a Roberto a vedere se è andato a informarsi. Ma infatti, chiamalo, diglielo. Ma se no fai come ti ho detto, io non c'è bisogno di... Io sono tutto il giorno in giro, a destra, a sinistra, non c'è un cane di controllo, ma cos'è? Ormai che hanno dato l'ok per uscire, certo, c'è gente in giro con le mascherine, devi essere con la mascherina, però si può uscire, quindi cosa ti devono controllare? Cosa lui devono fermare a fare che cosa? Dire dove sta andando? A farmi il battimento andando, cosa vuoi? Vai, prendi la macchina, se non chiamala Roberto prima glielo dici, se praticamente è andato a vedere questa cosa, andata lì. Se è andato, vai, ti rubigli, non stare lì a romperti le scatole, a chiedere, a fare. Vai, te lo compri nuovo, non è toccato a nessuno, te lo attacchi, gli metti più 4 e sei a posto. Infatti. Che temo a andare a prendermi la macchina. Stamattina sono andato a fare la spesa all'Aerospin, però adesso la macchina è in punta, già ci siamo capiti, sino che non viene mai parcheggio e va giù l'anca, sto uscendo col baccolo mio, non posso camminare, è quello che mi rompe le scatole. Io lasciamoci bene e vabbè, scusa che ti dico, io domani mattina magari ci passo da Roberto quando sto andando al QRL, tanto passo lì, capito? Perché io vado all'ufficio in Viale San Francesco, abbiamo l'ufficio, e quindi passo lì e glielo chiedo, e qua metto a periodo di andare a chiedere questo benedetto baracchino, se ce l'ha, quanto ne vuole. Dopodiché lo telefono e glielo dici, io questo lo posso fare domani mattina, ma se entra Roberto stasera glielo dici direttamente tu. Sì, già me lo dirà lui, ma forse no, o che non sia andato lui o che non ha aperto, perché non stava aprendomi. No, non stava aprendo alle 9, ma se passa le 10 e mezza alle 11 già è aperto, tranquillo. Tranquillo, tranquillo, già è aperto. Già stavo aprendo, lo sai che orario non ne ha più lui. Dica apre alle 9 come apre Fusaro, anzi Fusaro apre alle 8 e mezza. Lui apre alle 10 e mezza, alle 11, alle 10. Quando una gamba, quindi già stavo aprendo. Poi oggi dovevo aprire per forza, perché da oggi si rischia nuovamente il tram tram. Va bene, dai, Marco, riprendi e ci sentiamo più tardi, che io devo fare alcune cosette, cose che mi servono per domani mattina, dai. Ok, riprendi Marco. Che sì, certo che puoi venire. Devi sedere dietro, tutti e due con la mascherina. Ehi, ehi, no, no, scendi, scendi tranquillo. Scendi tranquillo, si può sedere anche a fianco a te, però devi avere la mascherina tu e la mascherina lui, ok? Se tu non hai la mascherina, lui si deve sedere dietro con la mascherina. Va bene? Questo è quello che mi hanno detto al comando. Vai, mi devo allontanare, Marco, riprendi tu e fai girare, ci sentiamo dopo. Sempre per farvi denti. Da dopo. Ciao, ciao. Cazzo. Pedalamento, mi bubu. Credo si sia allontanato, capo. Buona serata. Hai fatto il passaggio lungo, sei dovuto sentare, dai. Oh, poco mi ce l'avevi. Ma non lo senti, capri due? Lampada di tutto, Natalino. Natalino, lampada di tutto. Ma se vado a Marcello va a comprare il palacchino, per forza qui non arriva. Scherzando, fai il blocco qua, deve essere a fare il bale 7 volte per volta a 20 euro l'uno e da voi c'è tutti i benefici. Eia, ciao Capri, dai, sentiamo. Qua è entrato qualcuno, ciao, mi sembra di aver sentito Luca, forse anche Giulio. Rilancio, che rilancio Giulio? Sei tu? No, sto modulando la propagazione io, dipende, Eia, sento segnali sotto, ciao Lu, certo. Natali. Ecco, vabbè, caspita, arrivo a 7 mica, capri due qua, 7 e mezzo modulati. Com'è possibile che a te zero totale? Zero, l'antenna mia sporge un metro dal tetto, quindi cazzo è tappata praticamente. Ehi, vai tu, ma io quando ero in baramobile che parlavo al baracchino, capri due, bene o male lo sentivo mi. Anche nelle vie di Sassari, sai, tornando da Pro Torres, Corso Trinità, e non lo senti tu con la 5 ottavi. È strano, oh, vabbè. Comunque, Natali, se devi pigliare un baracchino che lo vuoi tenere bene, prendilo nuovo, non li comprare roba vecchia, non li comprare, nuovo. È un sacrificio in più, ma ti dura anche di più, basta tenerlo bene. Un 3.900 prenditi, Natali, e hai risolto ogni problema, un 3.900 super sano. Ma non posso comprarne adesso, perché non riesco a caricarmi la carta che hanno finito la ricarica al tabacchino, prima di mercoledì non ci riesco a caricare la carta. E poi ci metto un mese a arrivare, o due, se va bene, perché va, sono lenti, mandando la roba. Cazzo, quel come si chiama, quello strumento per misurare la cosa del sangue ci ha messo più di un mese a arrivare. Ma non c'è niente, quando lo racconto. No, ma non so se cosa hai capito. Guarda che se tu ordini il 2009, in 48 ore, 3 giorni massimo è qua, cosa ti credi? La domani, cosa, 3 giorni? Se ti sto dicendo che il saturimetro mi è arrivato dopo più di un mese, cosa, 3 giorni? Non esiste più, finché non si mettono a posto. Ma cosa stai dicendo? Guarda che io anche da poco ho violato le batterie per il trapano a batteria, i tassi, matita. Se ne avevo qua, cosa mi si disegna? La metà di quanto costa la stata, forse la metà del prezzo, perché perché la stessa le costavano 75-80 euro e adesso pagate 34 euro e addirittura più potente anche come amperaggio, perché la stessa gli erano 1,3 ampere e quelli che ho preso sono 3 ampere l'una, due di quelle batterie, la componente lì. Ma dai, c'è anche Amazon, e te lo sto dicendo, e 24 o 48 ore, 3 giorni esagerando, e ce l'hai a stessa. Comunque Natali, visto la storia della banca, della carta IP, telefonavi non rispondevano perché è chiusa, ho bussato, tutto chiuso, solo il bancomat attivo, al bancomat non posso ricaricare la carta IP, dovrò andare in un tabacchino abilitato. Stamattina pensa, potevo farlo ma non avevo il numero di IBAN appresso, non ce l'avevo, o meglio ce l'avevo ma era praticamente una foto della schermata del computer, non lo trovavo. IBAN non ce ne vuole per ricaricarla la carta. Oh Natali, la mia carta si ricarica esclusivamente tramite IBAN, non è una postpay, lì si carica esclusivamente tramite bonifico bancario, che tu lo faccia al tabacchino, che tu lo faccia alla banca sella, sempre bonifico bancario, è il metodo di carica di quella scheda. Per esempio puoi farlo anche da un altro conto, però io online non mi fido a usare il conto di mamma, però sempre facendo un modifico sulla scheda mia. Invece mi volevo fare anche la postpay perché le poste sono sempre aperte, c'è il tabacchino, non ne arriva una, o non abbiamo linea, o di sera non ne fanno, o non so cosa, e allora mi faccio la postpay pure, così io posso usare l'una e l'altra. Sì, ma no, il problema non è così, che hanno esaurito il plafond e quindi non te ne caricano finché non gli arriva la ricarica nuova anche a loro. È inutile cacciarti a Nicusi, a Cannibini della ricarica, eppure a me me l'ha detto quella del tabacchino, che gli arriva mercoledì, se gli arriva, perché sono un bel ritardo, tutte le cose sono in ritardo adesso. Beh, non la facciamo se mangio una festa, va. Che si può comare? Mi ha chiamato stamattina, robot quadrato. E a me? Negativo. Ha avuto il numero, A me? Ha avuto il tuo numero. Luca, ma stai pompando? No, sto già pompando, nulla. Si può parlare della bicicletta e buca. 9 più 30 proprio. O non ci avevo badato le altre volte, è proprio pieno il segnale, di più non va. Non lo so, cosa hai detto Natalia, ti ha parlato in due? Giudizio, si sa in nulla, così mi lo di tu. Ma il tuo mamma di numero di Natalino, l'hai già mandato Natalia, non li so. Perché io l'ho telefonato, io il numero suo non ce l'ho, nel cellulare. E tu Luca ce l'hai di Roberto, gliela puoi girare una cosa? Come la sento che ce l'ho? Ho chiamato lui perché stava chiamando a me. Adesso lo mando su WhatsApp, Natali. Perché in officina non c'è, c'ho quello dell'officina io il numero. Però lui in officina non c'è, che è uscito. Sto inviato. Perché guarda. Io non sempre giù acqua, come se cago se mandare col vecchio. Sei gran morto. Senti Roberto, li senti? Ma questa è propagazione. Aspetta, sembrano un locale, cioè dico. Mi ho mandato una cosa da inoltrare a Roberto quando vuoi. Qui se lo vede finalmente, chi ha il numero non ce l'ho e. E comunque senza ordine meglio non darne, capito? Cioè quando mi chiedono il numero di qualcuno chiedo sempre l'ordine al proprietario del numero se vuole darlo a una determinata persona, sai, per correttezza. Attento, ma da fare a tradimento. Fai i cavallottini, cazzo, o Marco. Aspetta Giulio che chiudo il ricevitore qua, com'è? Ecco, dimmi Giulio. No, Sì, questi manocchini. Allora, quale hai deciso per il rometro? Beh, allora, se si prende, perché io mi sono fatto due conti, ho detto, magari me lo faccio qua, cioè io il rosmetrino ce l'ho, per quanto piccolo e schifoso sia, bene o male, se ci sono le segnali stazionari, ma se mai dovessi prenderlo, Daiwa CN901, o quello o niente, e o nuovo o niente ovviamente. Non sai quanto costa quello lì? Sì, te l'ho detto ieri, allora da Media Globe gli sta arrivando, no? È l'ultimo uscito, il 901, 147 euro, più la spedizione ovviamente. Non è poco, ma no, stamattina l'ho detto io, non lo so, forse da Am Radio Show, 190 e qualcosa. Addirittura, faccio controllo, sarebbe un ladro, eh? Eh beh, se c'è tutta questa differenza, non credo che, in effetti è un ladro sì, ma non credo che ci possa essere 50 euro di differenza. Allora, Am Radio Shop, allora CN901 HP, quello da 2 kW. Perché tanto non serve quello a te. No, dice non disponibile, comunque era 155 euro. Non disponibile. No, 190, quello che hai visto è un altro, allora. Allora è di un'altra ditta, non mi ricordo, ma mi sono detto poco fa, non più di un'ora fa. Stavo girando. E mi sono detto, ok, lei che fa qua? Non vale la pena poi per la CB prendere quella cifra per il rover, perché sono rover sì, che vanno anche in V, perché quando fanno da 1,8 a 200 va anche in V, per cui non c'è da U, ma cosa te ne frega della U, tanto noi abbiamo noi, non possiamo usare. A 120, ma esagerando, tutto esagerando, è esattamente il ricordo, aspetta come si chiama, dai, va, mi sembra che sia il CN801, mi sembra, se ricordo bene. Eia, comunque ne fa un sacco la Diamond. C'è anche l'SX600 che fa da 1,8 ai 5,25, tutto ti fa HF, VHF bassa, VHF, poi con la banda intermedia, no? Fino ai 525 MHz, questo fa tutto, vedi? Però siamo sempre lì, strumento più piccolo, vabbè, però da 190 euro io non trovo nulla qua. 190 euro non trovo nulla. Aspetta, poi tutto Am Radio Shop, tutto terminato, poca roba disponibile. So che è poca roba disponibile, evidentemente ha venduto. Comunque io sono del parere che per noi va più che bene il SX200, 80 euro più o meno, e va benissimo. E anche quello va, arriva il V, perché se arriva a 200 il V è 144, per cui poi cosa te ne vai di andare a oltre? Basta che faccia la KF e basta, perché anche la VT7 è la KF, no? Riccardo, sei basso, come mai? Santiago 5, perché c'è propagazione di brutto, segnaloni anche che ti coprono. Ti ho sentito per sbaglio. Eia, certe volte, mi lo dicevo poco fa, non so a chi, alle volte arrivi quasi 9, alle volte sei nel QRM, alle volte segnale medio, e varia molto il tuo segnale. Allora, sto guardando questo strumento KV520, quello è un clone, vero, è un clone perché non c'è la targhetta, e comunque è la coppia del Diamond, giusto, quella persona. Comunque ti sento forte, Riccardino, ci sei? Vabbè, riprendi, chi c'è? Marco, tu? Io ci sono, ho telefonato a quella persona. Se ti dico quanto ne vuoi, fa sushi. No, allora, prima premi, che lì c'è ritardo, poi parla, però credo di aver capito. Beh, chiedilo a Antonio Reserva, se vuole l'ottomide 1, o un'altra lì, se lo sta prendendo. Allora, tu gli dici a quello di GBC di attaccarselo a culo a 300 euro, scusate il termine. Nuovo costa, allora sai quanto su internet, l'ho visto io che costa un bel di meno. Antonio ce l'ha lo 2001. Antonio, mi sembra che me l'avevo detto l'altro giorno, se ricordo bene. Allora, comunque ne ha due ce li ha, ma uno mi sembra che sia proprio lo 2001. Chi è Antonio Riserva? Ma anche quelli in realtà sono difettosi con frequenzimetro. Siccome compra, sai che cosa? L'SS 6009, con tutto digitale, c'è la Tino là anche modificato, esce, è una meraviglia con la radio. Fa da 26 a 28, 29 mi sa, fa 30 se non mi ricordo. Sì, e quando, vabbè. Sì, vabbè, ti sento. E poi ha diverse cose, quello fa anche a 50 watt FM, mi pare, addirittura, aspetta un po', fa. E poi anche tante altre cose, VIP, tutte queste cose, ma non mi che non è così importante. Però io avrei preso un coso, un 3009 e non sbagli, tanto è sempre superstar. Manitoni, anche i manitoni, superstar lo stesso, 170 euro, sei a posto, e ha un sacco di cose, anche lì mi sembra che arriva 30 watt. Sì, già lo so, tanto a me non mi interessa che sia potente. No, non è nessuno. Ma quello di Antonio dice che sono difettosi di frequenzimetro, Luca mi ha detto. Quali? Gli 8001? Sì. Qua se tu guardi dei forum ci sono, o magari su 1000 che ne hanno fatto, cosa ne so, una percentuale città difettosa, come il magno. Comunque. Che non fa niente bene, sono anche difettosi, 8001. Ma che è entrato l'avevo 300 volte a radio? Chi? TBC lo vuole, quello 2001, lo vuole 300. Quando costa 2,60 mi sembra che l'ho visto su internet. Catrice macque. Perché è riaperto la TBC? Via. Ma se fa quei prezzi e richiude subito. Ma senti, guarda, io c'è il 3009 che ti ho fatto vedere io, quello lì, oppure l'SS 6009, che c'è l'Alpino, bellino lì, tutto digitale, bello, poi vedi tu. Quello colpi non le prende, così hanno detto, poi non lo so. E poi c'è anche quell'altro, io lo sto vedendo, uno di quelli, 130. Già modificato. Cosa? Questo tipo SS 6009. Questo qua è 555, se non mi ricordo. Se puoi rischiare la salì, se poi vuoi rischiare, allora scusi, usate un RCB Midland, allora dove ne una marea. Addirittura ce ne sono anche da 30, 35, 40 euro. Però naturalmente 40 euro, esatto, sempre 40 euro. Per cui vedi un po' se proprio sei interessato e se ti fidi, ma io non mi fidi lì, sinceramente parlando. Non lo comprerei direttamente nuovo il basso. Però no, non è il caso di andare a comprare un 2001. A parte lo basta di nuovo, di chi c'è il ladro, perché non costa così. E poi è un apparecchio anche difettoso, guarda, se non posso garantire perché l'ho sentito più volte. Stai dicendo bene, Riccardì. Saluta! Allora, domanda, adesso ti dico ancora Natalì, allora, quella persona, Tonino, no? Che versione ti venderebbe a 300 euro? La versione voglio sapere. Omologato. Non vuol dire nulla omologato. Che versione è? Allora, io credo di ricordare che è la versione originale con i componenti classici, la versione S, ma è roba di 15-20 anni fa. come fa lui a avere un apparecchio nuovo di 20 anni fa? O è un residuo di magazzino? Poi voglio vedere in che condizioni sono anche i condensatorini. Vabbè, poi hanno iniziato a fare versioni in SMD, hanno fatto un pasticcio, ne hanno fatte roba di 2 o 3 in SMD, e c'è un saccaccio di gente che sui forum ha sputato sangue con queste 8001 nuove serie. Quello che tu vedi in internet ovviamente è uno degli ultimi modelli, ma tutto SMD, poi non si sa come va, può andare bene come può andare male, la sta lì. 300 euro, ma a Giomai, vabbè, Giulio riprende. Con 300 euro invece una KF dici, ma da rapiti di solito è dato, guarda, ma guarda, non c'è passato nemmeno per scherzo lì, e con negozio, ma è più ordinato Marcetto che è sul negozio, ma a parte quello, poi, ma la carità. Guarda, oppure sai cosa fai in altra vita? Telefona a Antonello Barracuda, lui ce l'ha l'anitone, e poi gli chiedi come va, perché l'avevo comprato lui, l'avevo pagato 164 euro, l'avevo pagato l'anitone, e ha un sacco di funzioni, ed è un superstar, e funziona benissimo. Lascia perdere che adesso Antonello si è spostato e è dentro un posto e arriva a basso, però nonostante tutto esce ugualmente bene, anche se arriva a basso. Informati da lui e poi ti dirà qualcosa. Poi c'è chi è entusiasta, e sto leggendo che uno dice nuovo modello, ah, ma stiamo parlando del 2007 qua, no. Oh, vabbè, comunque, vabbè, vedi tu, i soldi sono tuoi, Natalì, fai una scelta oculata, però c'è mezzo mondo che ti sta dicendo piglia il 3009, magari anche nuovo, quello non ti delude, di più non ti possiamo dire. E già lo credo, almeno sei tranquillo e sai che hai un'ottima radio, perché ha una radio bella, chiara e squillante con l'apparecchio. Poi se ci abbini l'MG più 4 hai fatto prevedere il dito, Natalì. Stanno giù due, dici MB più 4. Appunto, perciò ti prendi un 3009, ci metti quello e sei a dama. Aspetta Riccardino, c'era Riccardino, forse non lo sentite. Riccardo, dimmi. Ma lo sento io. Sente, ne hai preso. Riccardo, una domanda, ma com'è che quasi ogni giorno dice che c'è un'antenna nuova? Una volta hai detto che è Master, una volta di Polo, adesso la Blizzard. Eri 5 prima, adesso sei 7, poi sei 8, poi sei 9, poi sei 5. Ma non è che si sta pigliando in giro, no? Vagamente. No, vabbè, allora avevo capito male io, dai. No, perché il tuo segnale cambia continuamente, appunto io non capisco mai che antenna stai usando, eccetera. Va bene, Luca, ci sei ancora. Oggi, mamma mia, comunque bella giornata, però per i miei gusti è anche troppo caldo, Giulio. Io ero in camicia estiva, vabbè, maniche lunghe ma sottile, aveva un calcio, mamma mia. Poi sono tornato con le buste della spesa in salita, non te ne dico. Ok Marco, no, io sono uscito stamattina, sono andato a pagarmi l'assicurazione della macchina, che era caduta da qualche giorno, e siccome non si poteva uscire, e allora sono andato stamattina. Sono andato, ho pagato e me ne sono rientrato subito a casa, ma niente di più. Non ho fatto nessuno giretto, niente. Da qui a Serrasecca, perché io sono lì alla Cattolica, là è lì all'angolo dell'incrocio del semaforo su di via Reale, eccetera, come cliente si chiama. E lì. E sono rientrato subito a casa. Un attimino, Giulio, che mi allontano. Va bene, d'accordo. Evidentemente Giulio non ti sente, Riccardi. Io ti sento più bene degli altri giorni, adesso ti ascolto benissimo. E ho capito. Natalì! Dobbiamo essere vicini allora. Natalì dalla rete ha comprato un 3009 e si è appunto. E hai una bella radio che funziona ottimamente bene. Ed è soprattutto una radio con l'audio altissima. In che zona abiti di Filighedu tu, Riccardi? Sono io Natalino. Io ho la casa lì e ho la mantova 5 sopra 12 metri di palo. Capito? Mi bisogna vedere dove abiti tu. Antonio, ah, tu abiti più sopra di me allora. E adesso non me lo ricordo. Comunque tu stai sopra tutti, così è. Io sono più alto, se tu sei a 200 io sono a 400 e spiccioli. E allora già dovrebbe imbattere. Io ce l'ho addirittura a 12 metri, perché sono due verghe da 6 metri che entra una dentro l'altra. Ed è sopra 12 metri di palo la mantova 5, che se ne sta ridendo. Cosa l'avrò usata? 2 mesi e poi me ne sono andato da lì. Perché mi sono sposato e sono venuto qui a Sassari, però la casa ce l'ho sempre lì. Comunque 6-5 ottavi dovrebbe andare bene, Riccardi, fregate, 6-5 ottavi la metti sopra un palo da 6 metri, anche telescopico, gli metti i tiranti e sei a posto. E vedi, cosa pretendi? Io, guarda, ti ricevo incomprensibile quando parli da Filighetti, perché è proprio l'antenna quella lì che non imbatte nulla. Infatti. Anche io non ti sento, da qui non ti sento, io c'ho una 5 ottavi, io sento che parli, però non è comprensibile la modulazione. Infatti ho toccato a quanto lo sento bene oggi, perché si è Sassari. E Giulio è fuori Sassari per quello, poi c'ha anche l'antenna bassa lui, io ce l'ho bassa lo stesso l'antenna, se ce l'avessi avuta più alta, perché qui è un macello a piazzarla, mi avrei sentito anche da Filighetto, però ti giuro, guarda, mi viene impossibile capire quello che dici, anche perché arrivi troppo basso di segnale da Filighetto. Pagina ci fa vedere Natalie. Chiamato qui a Roberto, gli ho dato il numero io, hai visto quanto ne vuole quel miserabile? 300 euro ne vuole quel miserabile, ma perché è un miserabile? Quando internet costa 260, l'omologato, e poi bisogna vedere che cos'è, che sono difettosi che sia 8001. Ma te l'ho detto io che non te l'ho regalato, figurati tu. Vabbè, comunque, gli ho dato io il numero a Roberto, ci siamo sentiti e gli ho dato, e ha detto che ti chiamava, quindi se ti ha chiamato tutto a posto. Ho detto, ma con chi stai parlando che non lo sento? E con Riccardino, perché è vicino a me e riesco a sentirlo. Arrivo a Potente qua adesso Riccardino, perché è dalla nonna, non è a casa sua. Ed è con un portatile, non lo senti per quello, Cla? Ehi, non arrivo da casa sua con l'antenna grande, figurati se lo sento col portatile. Vabbè, allora buon questo, dai, ci sentiamo dopo. Io non parlo se non sento la gente. Ci sentiamo dopo, dai. E ciao, Cla. Luca, ci sei? Sì, Natali, sono rientrato, ero fuori con il cane, dai. Sì, lo so anche io, qua arrivo a 9:10, Riccardino. Fammi voti in occhio, ma è dalla nonna però, è una mini Grand Play quella che lui ha Filighetto, ecco perché non lo sento, ma cosa non arrivi a disegnare in occhio? Io lo sento che parla, ma è incomprensibile, Riccardino, quando è a Filighetto, capito? Me la fai una massa lui, che ti devo chiedere un interrogativo per cortesia, o te la faccio io? Aspettiamo io, là. Ci vuole una 5 ottava, inutile, ma anche una mezz'onda, messa sul tetto, e arriva benissimo dappertutto, da Claudio, da tutte le parti. Facciamo una 5 ottavi, c'è la Game Master, se non la vuoi quella costruita da Luca, la prendono. Aspetta un attimino che devo fare una chiamata. Aspetta un attimo. KK, io sì. Ma metti una 5 ottave, non sbaglio, riceve e trasmetti benissimo. Ciao Gianni, da chiamata, c'è la nuova fuori fatta da Luca, no? e sono buone quelle le antenne lo stesso, solo che ti compri la canna da pesca, fai tutto il lavoro, risparmi tanti soldi, non lo so, c'è la Marco quella, aspetta, Sirio Blizzard, aspetta, ah, è quella che, sì, 5 ottave, l'altro guadagno, 130 euro costa, sì, qua da, mi sa vedere qua l'antenna, vediamo se mi fa vedere la struttura, no, non c'è l'antenna, questo prodotto può essere acquistato con COD, ma c'è su eBay, dove l'avete acquistata, da eBay? Certo, luce tiki taka sigaretta, alle 29:20 nel canale 45, esaurita le due. Non lo so, Cla. Allora, aspetta un attimino, allora, Sirio antenna, vaffanculo, antenna, Sirio, vaffan Napoli, Sirio, Blizzard, lasciamo vedere. Sai quello che avevo visto io. Ah, ho capito, sì, che c'ha il coso anche. Una specie, fa la 26-28, costa 142 euro spedita. Una cosa? Aspetta, sta parlando per il cardino. Sì, bravo, è vero. Poi c'è questo qua che sta vendendo questa di seconda mano, antenna CB di base Sirio 2016, 135 più 9 euro di spese. Allora, lascia vedere. Poi c'è la, sai che è buona anche, la Sirio Tornado 27, che ce l'ha Marco Scorpio, il vicino di casa tua, quello c'ha tante antenne, ce l'ha lui, e ha detto che è un'ottima antenna. Ma se non fece già le radiali. Ciao Claudio. Ciao Giulio. Ho capito. Non lo so, cosa di meno, Marco ha detto che è un'ottima antenna, 89, 98, 100 euro ti costa, però dice che è un'ottima, fa, cosa ne so, quanto fa, 2, 3, 4, 5 anni, 10 anni, dipende dalla struttura, secondo me la migliore in assoluto è la Mantova, non vi ne fa nessuno. Ma se non puoi scegliere le radiali, Marco? Sì, è un alluminio scadente. Ma perché sto parlando per questo bambino, sto sapere? Marco, io, ragazzi, siccome non ti sentono, purtroppo non ti sente, c'è Claudio e gli altri, e ti parlano sopra, e mica li posso dare la colpa, ti sento solo io, è Natalino. Sì, comunque già sistemi, vedrai che poi arrivi dappertutto, guarda, te ne passa anche la voglia di modulare, fidati, arrivi ad Alghero, già arrivi adesso ad Alghero, poi se metti un'antenna buona come si tocca. Aspetta un attimo, vediamo un po' chi vuole entrare, avanti, chi è vuole entrare, a parte Claudio? Chi è Claudio? Che stava chiamando, vai? Non so che sentivo gente sotto, non so, poi c'era Giulio che mi ha salutato, ha detto quell'antenna, ne ha già perso qualche radiale, mi sembra che ha detto Marco l'altra volta. Sono tutti gli anni vari, dove si non si può comprare un'antenna anche di questi anni. Questo è Mini Grand Prix. La Mini Grand Prix la dopo a Filippo ci yoga. Vabbè. Non lo sappiamo se ne ha assurdi o no, claro. Che non risolgo, però non sono la tasca di loro. Comunque si sta comprando questa 5 ottavi, è l'unica una 5 ottavi, non te stai lì, mezz'onda, quarto d'onda, anche se vanno bene, mi. Ma bisogna piazzarle sul tetto, che magari sicuramente lui è in un fosso, ma tu in un fosso sei, Riccardino. La 827 ce l'aveva anche e Antonio da Barracuda, non gli è durata nemmeno un anno, mi viene a fare da pezzi. Poi bisogna portarla su allora, quella bisogna portarla su, in base, cioè, deve essere su, non sotto, si trasmette lo stesso, però più alta la mette meglio è. Avanti Giulio, tu sei? Sì, ho detto che l'antenna da 827 ce l'aveva Toledo Barracuda, non gli è durata nemmeno un anno, perché ha un alluminio fragilissimo. Grazie di nuovo Silviano, ho capito. Vabbè. Io continuo a dire che la matto fa la matto qua. Quanto abbiamo piantata già, la mia? 10 anni? 8 anni, 10 anni, 12 anni, se non mi ricordo. Buoni. Cosa? Ho detto buoni 10 anni. Questo con la terra di sì, l'ha smorto tranquillamente. L'ha smorto, infatti mi sto organizzando. Adesso vediamo un po', se ho la macchina, così vado a prendere a Lucca, e lui c'ha lo strumento, per non stare lì, scendi qua, misura, scendi, sì, sali, abbassa, capito? Con lo strumento me la taglia direttamente. Magari non le danno. Io ne ho una, c'è una era di Giuseppe, là, dove abitava prima, Giuseppe è tornato, ce n'è, ed è nuova, ce l'ha messa boh, 5 anni fa, 6 anni fa. Devo andare a chiedere a quello dell'ultimo piano se mi fa salire e mi dà una mano a smontarla. Se mi fa salire sul tetto, ma a smontarla, quella è nuova, è nuova, nuova. Ma perché la tua rotta? No, assolutamente. La pompa la scia, quella c'è preso detto, se andavo e me la tenevo io di scorta quella, se mi faceva salire il tipo, ma tu sì, guarda, è un tipo tranquillo, quella, praticamente si sono sposta le tegole, tra, capito? Ah, ecco la cosa tipo che avevamo fatto la francola, e vabbè, comunque se funziona, che te l'ho fatto toglia, è sempre buona, io adesso forse mi organizzo domani mattina. Dopo se c'è Tino, magari glielo dico, se vuole qualcosa con lo strumento, perché domani mattina sono in giro in quella zona e molto probabilmente passo anche da Gianni se c'è a ritirarmi quel piantone con i radiali. Se dove dovrei andare lì, dove abitava Giuseppe prima, e vedere un po' cosa, se me lo permette di salire, può salire lui e la smonta lui, ma intanto lui non la sa smontare. Se è vulcanizzata bene riusciamo a smontarla, a recuperarla. È roba nuova, quando ha fatto un super lavoro con quell'antenna. Tutta vulcanizzata bene, messo le cose giuste. Mi devo più organizzare un giorno che ho la macchina, andare a smontarla. Hai detto bene, se è vulcanizzata bene, hai visto quella già? Era vulcanizzata bene. E si smonta subito con la vulcanizzata bene. Quando è vulcanizzata male, entra l'ossido, l'acqua, fa un casino ed è... non fa. Vabbè, vedi un po'. Come domani? Domani sono in quella zona lì, giù. Tanto andare a vedere San Francesco d'Ufficio, poi devo fare tre commissioni verso il monte. Quindi se c'è Gianni passo a ritirare quella roba mia. E poi se c'è Tino le passo quello strumento, se c'è, se è disponibile, se no pazienza. Avanti Giulio, io però rimango in quelli, sto facendo cose al computer, ci sentiamo dopo, anche perché è presto, se no non ne voglio bene, ci sentiamo dopo, vai giù. Dai, sono al telefono, se prendi tu Luca. Chi è che ha chiamato? Avanti? Segnale basso c'era. Sì, vabbè.